Abbiamo visto le regole che riguardano le Birkot HaShachar la mattina e abbiamo visto le regole che riguardano il Bet HaKnesset e la Kedushah, la santità del luogo in cui si prega e in alcuni casi quella anche di dove si studia. E adesso procediamo con le regole che riguardano appunto i Pesukei di Zimra. Il testo di riferimento è il Kitzur Shulchan Aruch, capitolo 14. I Psukei di Zimra, come adesso vedremo, sono i brani di lode e di ringraziamento che sono posti nella tefilà tra la benedizione di Baruch Sheamar e quella di Ishtabach, cioè esiste una apertura e una chiusura a questa sezione della tefilà che si chiama appunto Psukei di Zimra, versetti, salmi di canto, di lode. L'apertura è con la Berachah di Baruch Sheamar, che poi va a chiudersi con la Berachah di Ishtabach. Ok? Ora, l'ordine specifico varia secondo le usanze, cioè il brano di Hodu, Hodu l'Hashem Kiru Bishmo Hodu Bamim Alilotav, in alcuni riti lo si recita come a Roma, prima di Baruch Sheamar e in altri riti dopo Baruch Sheamar, e quindi voi vedrete qui il riferimento a Hodu come un brano che è detto dopo Baruch Sheamar perché esiste appunto questa usanza anche, ma in ogni caso la designazione alachica del Pesukei di Zimra è da Baruch Sheamar fino alla conclusione di Ishtabach, dopodiché inizierà l'altra sezione della Tefilah che si chiama appunto Birchot Kriyat Shema, le benedizioni dello Shema, di cui abbiamo parlato anche nella Gemara che abbiamo studiato, però saranno anche approfonditi qua. Ah, bravo. Allora, vediamo il testo cosa dice. Il testo dice che Min Hodu ad la Harashira, appunto, dice da Hodu fino a dopo la Shira sarebbe la cantica del mare, Asia Shir Moshe. Questo si chiama Psukei di Zimra. Emma, questi sono i salmi di lode. Psukei di Zimra. Ubaruch Sheamar, l'apertura appunto, Ibrahim Shelifnehem, la benedizione di Baruch Sheamar è quella che li precede, e Veishtabach, Ibrahim Shelachareem. E quella che li segue, che li conclude, che li chiude formalmente, è la Berachah di Ishtabach. Quindi, di conseguenza, qui, siccome si tratta di una sorta di unica sezione della Tefilah, che apre con Baruch Sheamar e chiude con Ishtabach, per questo motivo, come adesso andremo a vedere, non si interrompe con la parola durante le Psukei di Zimra, perché è come un unico blocco che è incluso e racchiuso da un'unica Berachah. Assur le afsik, è vietato interrompere con la parola. Afilu bileshon hakodesh, anche se uno parla nella lingua sacra, cioè quindi non è solo una questione di usare una parola profana, è proprio una questione di interrompere. E appunto aggiunge nella parentesi, chen bechol makom sheasur le afsik. E così in ogni punto in cui è vietato interrompere, asura filo belashona kodesh, è vietato anche belashona kodesh in lingua sacra, è indifferente. Se però, ach l'inyan efsek lidvar mitzvah, se si tratta di interrompere per compiere una mitzvah, ok? Allora, Yesh Chiluk, l'interruzione, sospendere la tefilah per una mitzvah, Yesh Chiluk, c'è una differenza, ben Pesukei di Zimra u Birchotea, le Kriyat Shema u Birchotea. C'è una differenza se la persona si trova nella lettura del Pesukei di Zimra e le relative Berachot, quindi Baruch Sheamar e Ishtabach, oppure la cosa è più rigorosa se si trova nella lettura dello Shema e le sue relative Berachot, quindi Yotzer, Avat Olam, Emet Ve'Yatziv, eccetera, o Emet Ve'Emunah. Qual è la differenza? Vediamo ora. Bi Psukei di Zimra, se si tratta del psuche di Zimra, afilu beemza Baruch Sheamar, anche se è in mezzo alla berachah di Baruch Sheamar, mentre recita Baruch Sheamar, oppure mentre recita Yishtabach, ubeemza Yishtabach, im shomea eze berachah, che vuol dire interrompere per una mitzvah? Vuol dire se sente una berachah che qualcuno recita, può rispondere? Mutar lola anot amen, può interrompere mezzo che sta recitando Baruch Shamar o Yishtabach, o a maggior ragione Ashrei Yoshevetecha, tutte le psuche di Zimra, per rispondere amen. Oppure, vechen, im shomea, se sente, che lui non è a passo con il minyan, è arrivato tardi magari, sheakahal omrim kiriyachema, se c'è una berakha, risponde amen. Se stanno dicendo lo Shema, se tutti iniziano a dire Shema Israel, lui interrompe quello che sta dicendo e dice con loro questo primo versetto, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Perché normalmente quando c'è possibilità di interruzione, anche poca possibilità, come nelle psuche di Zimra, che per altre cose profane che siano non si può interrompere, però se il pubblico dice Shema Israel, ci si unisce al pubblico e si recita il primo versetto Shema Israel. Qui stiamo parlando se stiamo tra Baruch Shamar e Yishtabach. Anche nel Baruch Shamar e Yishtabach stessi. Un Mikol Sheken e a maggior ragione che si interrompe in questi punti della tefilah per rispondere alle seguenti cose. Le Kaddish, gli Amen che si dicono nel Kaddish. Sì. Nel psuche di Zimra si risponde. Se in mezzo, per ora, no? Siamo in mezzo al psuche di Zimra, in mezzo a Baruch Shamar, o in mezzo a Ashrei Yoshevetecha, o in mezzo a Yishtabach. Rispondiamo al Kaddish e rispondiamo anche Vela Kedusha. Kedusha vuol dire Kadosh Kadosh nella ripetizione, la Kedusha. Ule Barechu, anche se si sente Barechu, si risponde Baruch Hashem Amevorach Lolam Vaed, anche se siamo nei psuche di Zimra. Rispondere alla Mendi una Berakha, al Kaddish, alla Kedusha e al Barechu. Esatto. Sembra che hanno sempre la precedenza comunque queste cose su tutto. Sì, vero. Solo Amen o anche se si sente la Berakha? Kedusha non c'è Amen, Kedusha no, è no, la... No, nel Berakhot. Non Baruchu Baruch Shemo. Bravo. Non Baruchu Baruch Shemo, ma Amen sì. Con il Kaddish Amen, però c'è anche la frase che dice... Amen Yesh Merabba pure. Ok. Sì. L'unica cosa che escludiamo da qui è Baruch Hu Baruch Shemo, perché Baruch Hu Baruch Shemo non è un obbligo di rispondere a Baruch Hu Baruch Shemo. Baruch Hu Baruch Shemo, quando sentiamo il nome di Hashem, diciamo che sia il suo nome benedetto, ma non è una risposta, è come una lode, bravo, che però se siamo in mezzo a Baruch Shamar o Beripsuke di Zimra, allora abbiamo detto non si può interrompere neanche Belashona Kodesh, neanche in lingua ebraica. Quindi quella è considerata un'interruzione. Invece Amen è un obbligo e di conseguenza nelle Psuche di Zimra è permesso interrompere per rispondere Amen e le altre cose che abbiamo detto. Scusa Rab, sul Sidur italiano, di rito italiano, c'è scritto che da Baruch Shamar fino alla fine dell'Amidah non devi parlare, sì. Quindi fate queste eccezioni, però qua invece parla fino a Yishtabach. A questo non c'è nessuna contraddizione, ti spiego perché. Noi stiamo parlando del blocco di Psuche di Zimra. Ah, poi quell'altro. Poi vedremo che anche nel blocco dello Shema e le sue Berachot ugualmente non si può parlare, quindi di conseguenza da Baruch Shamar fino a dopo l'Amidah non si può parlare, però... Esatto, però sono designazioni diverse, perché noi vedremo che queste interruzioni che sono permesse nel Psuche di Zimra non necessariamente è esattamente la stessa cosa nelle Birkot Kriyat Shema. Lì è più rigorosa la situazione e vedremo lì il dettaglio. E quindi se guardiamo l'Alaha sono due designazioni diverse. Certo, in pratica uno non parla da Baruch Shamar fino a dopo l'Amidah. Ok? No, no, ma l'Alaha è quella, non è solo per essere sicuro di non sbagliare. Non deve parlare mai, sì, non è che uno deve mai parlare. No, interrompere. Parlare, se intende comunque in questo senso. Qualsiasi parola, che no, non è... Il parlare io intendevo comunque le risposte, l'amen, queste cose qua, anche dopo. Quello non è quello che è scritto sul Sidur, però. Il Sidur dice non si può parlare, per dirti che non puoi dire ciao, buongiorno. Ah, ok, quello si intende. Parole strane. Devi interrompere per dire amen. Sì, sì, sì, devi. Ma tutto questo, scusa, ha un nesso con la Kavanah? Certo che ha un nesso con la Kavanah. Perché è una questione di concentrazione. Tutto questo pezzo qui non lo puoi disturbare, perché tu ti devi concentrare là di più degli altri due. Come se questa tagliassi un filo invisibile no, tra ma te. Questa è Kavanah, o no? Sì, cioè, il non interrompere, certo che è legato alla Kavanah, vuol dire se una persona... ci sono due aspetti. Uno può interrompere anche col pensiero, senza parlare. Può leggere le parole, magari è abituato, e pensa ad altro. Quindi la Kavanah richiede ancora più, diciamo, impegno da parte della persona che deve cercare non solo di non interrompere con la parola, ma anche a tenere il pensiero, l'intenzione, appunto, Kavanah, su quello che fa. Mettendo a fuoco quello che sta dicendo. Quindi è un impegno maggiore. Qui stiamo parlando dell'interruzione con la parola. What you're saying? The meaning of the words. Uno deve pensare al significato delle parole il più possibile. C'è la traduzione, o pensa a pronunciarle bene, eccetera. Te ci hai spiegato una volta questa cosa che verrebbe. Sì. Comunque, data la sua alta statura, comunque di intelligenza, comunque di lettura e altro, lui anche durante lo Shema seguiva. Leggeva tutto dentro il libro, tutto, vero? Per non cioè per comunque per dare anche importanza è bene, importanza è bene leggere dal libro, sì. L'importanza di seguire le parole, bravo, scritte che è scritte sì, che sì. Ok, ora aggiungiamo una clausola a quanto abbiamo detto. Un mikol makom, tuttavia, nonostante quanto abbiamo detto che si interrompe per queste cose, im efshar lo lechaven, se riesce ad essere preciso, sheyafsik leelu bimkom efsek, che risponde amen, se una persona riesce a stare a passo con la tefilà in modo tale che risponde amen, lui sta nel psuche di Zimran, non sta con il minyan, però almeno riesce a rispondere amen quando ha finito un brano e deve iniziare un altro. No. O almeno ha finito un versetto e prima di iniziare l'altro. Se è possibile, è meglio così. Vuol dire, io sto dicendo, Ashrei Shvevetecha, amen! Non suona. Sì, certo, se quello è il punto in cui mi trovo, rispondo amen. Però se riesco a dire a Sheshavtecha Odi Aleluca Sela, che è la fine del versetto, se riesco, perché non posso rispondere a me dopo 3 minuti che la Brecha è stata detta, no? Quindi se riesco a gestire in questa maniera è meglio. E come dicevamo, qui adesso c'è il riferimento a Baruch Hu Baruch Shemo. Baruch Hu Baruch Shemo lo yomar toch pesuke di Zimra. La risposta di Baruch Hu Baruch Shemo invece non la deve recitare durante le psuche di Zimra. Scusa Rab, nel caso della ripetizione della Midah no, perché è lungo, però nel caso del Kaddish magari uno si ferma totalmente per tutto il Kaddish, sì, lo fa certo, come deve rispondere e poi continua a fare quello che assolutamente sta facendo. Sì. Allora, il Baruch Hu Baruch Shemo non lo recita, non lo dice nelle psuche di Zimra, afilu bimkom efsek, anche in un luogo in cui c'è una interruzione, nel senso che c'è una virgola o un punto o un paragrafo nuovo. Quindi anche se ha finito Ashrei Shve, deve iniziare il prossimo Alleluca, anche lì non si dice Baruch Hu Baruch Shemo. E qui dice nella parentesi che vance in non isgar bigmara, la formula di Baruch Hu Baruch Shemo non è citata, non è prevista dalla Gemara. Cioè nella Gemara non troviamo questa cosa. Come dicevo prima, non è un obbligo, è una usanza che è aggiunta per lodare, per ricordare la grandezza di HaKadosh Baruch Hu. Però, non essendo un obbligo, non lo si dice dove non si interrompe. Vechen hanosach itbarach vishtabach shomrim kishchazan menachen baruch Hu. Questa è una cosa, è un'usanza che non è molto conosciuta oggi, almeno nei riti più comuni che conosciamo, cioè che mentre il Chazan canta Barechu et Hashem Amevorach, c'è un brano che è intitolato Yitbarach Vishtabach. Quello non si dice quando ci si trova in mezzo al Psuche di Zimra. Non si interrompe per quello, perché anche questo è un'usanza, non un obbligo. Che vance e no è la minhag. È un minhag, cioè un'usanza, non un obbligo. Non ho capito, quale è un'usanza e non un obbligo? Quello di esiste un rito, sì, secondo il quale quando il Chazan dice Barechu, il pubblico dice un'altra cosa come sottofondo. Ho capito. Prima di rispondere Baruch Hashem Yevorach Olam Ve'ed. Inoltre, se uno è andato a fare i propri bisogni, Chen im asatze rachav verochetzi adave, si è lavato le mani, chiaramente. Ovviamente deve andare a fare i propri bisogni se è necessario durante il Psuche di Zimra, perché non può pregare se è in quella situazione. Però quando si lava le mani deve dire la berachà di Asher Yatzar o no? L'autore del Kitzur Shulchan Aruch dice Nireli, mi sembrerebbe dello yomar birkat Asher Yatzar, che non dica la berachà di Asher Yatzar, che vanci a cholomra achar kach, perché la può dire tranquillamente dopo che finisce l'amida, anche se non è subito, può dirla un po' dopo. Alle interruzioni durante le psuche di Zimra bisogna aggiungere quella di Modim. Ah. Quando si dice Modim nella ripetizione e il pubblico dice quel brano che si chiama Modim de Rabbanan, quello pure si dice all'interno del psuche di Zimra. Si interrompe per recitare quel brano, come per recitare la Kedushah, come dicevamo, rispondere al Barechu e all'Amen. Qui non è esplicito, ma va... Tutto il pezzetto Modim che sì, dice il pubblico. Ora, un'usanza molto comune che adesso vedremo è quella di tenere in mano le due tzitziot anteriori durante la recitazione del recitare Baruch Shamar. Mi è venuta una domanda. Allora, se io mi trovo in quel punto e cioè, si sta facendo la ripetizione dell'amidà, quindi praticamente dicendo Amen, sì, io è come se dicessi la berakà dell'amidà. Ok. Perché, però poi... Shomea Keone. Poi sì, dopo... visto che sono arrivato in ritardo al tempio, poi dopo io farò lo Shema e poi rifarò la Midah. Quindi non dico due volte la stessa Berakah? No. Ok. Non è come se dici due volte la stessa Berakah. Anche se rispondere Amen è come dire la Berakah, comunque serve l'intenzione e già il officiante anche deve avere questa intenzione e non ce l'ha. Cioè l'officiante non tiene in mente che chi sta in mezzo a fare la tefilà risponde Amen e esce l'obbligo dell'amidà, anche perché sarebbe forse più facile se tu non fossi nel Psuche di Zimra. Se tu sei nel Psuche di Zimra stai già facendo una tua tefilà che procede e arriva fino all'amidà tua personale. Okay. E già di per sé questa è un'indicazione che non ti appoggi all'amidà dell'officiante. Chi si può appoggiare alla tefilà dell'officiante è chi veramente non è in grado di fare un'amida, okay, da solo. È lì che si applica più che altro oggigiorno la regola della come se avessi fatto l'amida. Okay. Chi non è proprio in grado di fare l'amida si appoggia e fa attenzione ad ascoltare e rispondere Amen, che dobbiamo tutti fare, ascoltare e rispondere Amen, però con l'intenzione che quello per uscire l'obbligo, e anche l'officiante deve avere la stessa intenzione. Allora, nella prossima halakha appunto vediamo che l'idea di tenere i due tzitziot, yochaz shtei hatzitziot shelefanav, tenere in mano, prendere in mano le due tzitziot anteriori, veyomar baruch shamar be'amida, e si recita il brano di Baruch Shamar in piedi, e alla fine si usa baciare i tzitzitu betashlum meulal batishpachot yenashkem v'yanechem. Quando conclude la berakha, melech meulal batishpachot, amen, si baciano queste due tzitziot e si lasciano. Molti usano così. Ve'yomar kol pesukei di Zimra benachat ubeneima ve'lo bimeruzza. E non bisogna correre nel recitare pesukei di Zimra. E dirlo con calma. Con voce gradevole beneima. Veidaktek bechol atevot. Sentite che bella frase. Bisogna, bisogna stare attenti, fare attenzione, le daktek, puntualizzare, che ilu haya mone maot, come se contasse del denaro. Parola, è l'unico modo in cui uno sta attento. Parola, ogni parola è preziosa. Bello, no? Sì. Ogni parola è preziosa. Vi chaven perusha milot. Sa che si rivolge. Punto. No, è, in realtà è un modo di dire. No, altro che modo di dire. Vi chaven. Razzismo. Perché lo volete pensare così? No, no, vi... no. Sto scherzando. Vichaven perusha milot, e bisogna tenere in mente il significato delle parole che si recitano. Quindi per questo è importante almeno un po' iniziare a imparare, per chi non capisce quello che dice nella tefilà, piano piano, brano per brano, magari riga per riga, vedere la traduzione e abituarsi a capire cosa si sta dicendo. Umikol sheken. Le pasuk poteh et yadecha, quando si arriva al versetto poteh et yadecha, che si dice nella shreo shevetecha, che vuol dire apri la tua mano e soddisfa il desiderio di ogni essere vivente, allora quello va detto con una grande kavana, shetzarich leomro bechavana gedola, sheichaven perusha milot, e tenere in mente bene il significato delle parole. E quella è una occasione, un momento in cui cosa si tiene in mente mentre si dice questo versetto, vit pallel be machashavto, preghi nel suo pensiero, cioè non aggiungendo altre parole alla tefilah, ma nel pensiero, al mesonotav, per il suo nutrimento, ve al mesonot kol Israele, per il nutrimento di tutti i bnei Israel. E qui c'è una cosa, una novità su questo versetto qui in particolare. In quanto ve'im lo kiven li boklal, se la persona ha recitato il versetto ma non ha fatto proprio il minimo pensiero riguardo al significato, cioè proprio l'ha recitato a mo' di automatismo, senza proprio avere in mente nessuna idea di cosa stava dicendo, in questo versetto specifico deve tornare e ridirlo. Afilo bediavat tzarich lachzor Uleomro bekavana, deve tornare e ripeterlo di nuovo. Anche se ha finito già il brano di Ashrei Shvevetecha, torna a dire Poteach et yadecha, umasmia lekol kai ratzon, con il tenendo in mente il significato delle parole. Sì. Torna indietro e dice solo quel versetto, sì, che io idea. Sapevo, cioè non avevo sentito, non so se ho capito male, che tutto Ashrei dovrebbe essere con tutta la tefilà, ovviamente, però tutto in particolare, che se non lo si è seguito nel complesso con l'attenzione dovuta, lo stesso tutto Ashrei va ripetuto, no? Solo il versetto. Solo il versetto. Ora un altro accorgimento viene fatto qui, nell'ultima riga. C'è nel Hodu, nel brano che si dice, nel nostro caso prima di Baruch Shamar, c'è il versetto dove si dice Ki kol Eloe amim elilim, vadonai shamai masa, che vuol dire tutti i dei dei popoli sono idoli, elilim, mentre il Signore creò il cielo. C'è questo versetto. Allora, tra la parola elilim e la parola Vashem, il nome di Hashem, bisogna fare una piccola pausa, per non legare le due parole, gli idoli e dall'altra parte Vashem Shamai Masa. Quindi ben Elilim u ben Hashem Shamai Masa tzarich lafsik ktzat. Bisogna un po' interrompere, che non sembri che la parola Hashem è rapportata alla parola incluso in quello che abbiamo detto nella prima parte del versetto, che in ebraico si dice shelo yehenira che choser le mala, che la parola Vashem non sembri che torni riferita a quanto è stato detto sopra prima. Ok? Quindi Vashem, scusate, Elilim, Vashem Shamai Masa. E Hodu, all'inizio della tefilah. Nel terzo paragrafo vediamo che Yizaher, la persona, debba fare attenzione, se l'oliga, di non toccare durante i psuchedizim rabbi, un mikol sheken a maggior ragione a harkach, dopo i psuchedizim rabbi ancora di più, ad gemara tefilah, fino alla fine della tefilah, di non toccare che cosa? Di non toccare bim komota mechusim begufo, i luoghi coperti del corpo, oppure o berosho bim koma mechusim, oppure il luogo coperto della testa, no? Per tutta la tefilah. Con, eh? Per tutta la tefilah, tanto. Abbiamo detto per tutta la tefilah, sì. Chen bezoata chotem o bezoata ozen, oppure dentro il naso o dentro l'orecchio, che può essere qualche sporcizia, asurliga, non lo si deve toccare, chi maliedei mitpachat, se non che attraverso un fazzoletto. Vim nagabi ado, se invece ha toccato con la mano, con le dita, allora yeshlo lirchotzi adobamaim, deve smettere un attimo di far tefilah, lavarsi le mani. Se invece si trova in mezzo alla midah e non può muoversi, Vim hu bisheata tefila vei efshar lo lazuz, se si trova nella amidà, qui per tefila si intende amidà, e non può muoversi, perché durante l'amidà non bisogna spostare i piedi, devono stare fermi e dritti, ulvakesh maim, non può cercare l'acqua, allora in quella situazione dai lo benikayon zeror o chochech yadobakotel vekadome, quella cosa dura che gli avvicina la usa per strofinare le mani, che sia una pietra, un muro, una sedia, quello che è. Che avvicino prima di continuare l'amidà, si strofini le dita per, a mo' di pulizia su quella cosa. Ok? Ora, nelle psuche di Zimra ci sono alcuni punti, alcuni brani che vanno letti mentre siamo in piedi. Il primo l'abbiamo già detto, che è Baruch Shamar, ma anche nel durante, qui si fa riferimento a un mismor che non tutti usano stare in piedi, però... adesso lo studiamo, invece altri punti tutti usano. Ora vediamo al brano 4. Mismor le toda omrim ba'amida ubesimcha. Il primo salmo che si recita dopo Baruch Shamar, che è Mismor le toda, il salmo di ringraziamento, dice che bisogna recitarlo in piedi e con gioia. Non tutti lo recitano in piedi, però tutti lo recitano con gioia. Sì. Come? No, ci siamo dopo, quindi sì, mi siede, sì. Ci si siede dopo mi smoletto da? Sì. Oh, vedi? E questo vale anche per il... Beh, uno comunque sta già in piedi a Baruch Shamar, quindi magari rimane in piedi e per mi smoletto da. Vale anche per il corrispondente dei giorni di festa? No. Perché adesso vediamo la motivazione. Shehu bimakom korban bimkom korban toda. Questo salmo è recitato al posto dell'offerta del Korban Todà, il sacrificio di ringraziamento. C'è detto ieri. Sì, qualche volta l'abbiamo ricordato, non mi ricordo se è ieri o... E allora, siccome è il sacrificio di ringraziamento, rappresenta quello, e quindi Mipneishe Korban Todà Ba'a Bindavà, visto che quel Korban Todà, il sacrificio di ringraziamento... viene è conseguente di un dono spontaneo, è una nedava, non è un obbligo che qualcuno dice vai a portare la... Di conseguenza ven mi vim nedarim nedavot be shabbat biyom tov, e durante Shabbat e Moed non si portano korbanot di dono spontaneo, solo quelli che sono d'obbligo. Allora, per questo motivo, non lo si recita durante Shabbat e Moed, questo Mismor le Todà. Ok? Game nomrim oto bechol ha-moed shel Pesach, e anche nel Chol ha-moed di Pesach non si recita il Korban Todà. Ora vedremo quali sono, scusate, il Mismor le Todà. Vedremo quali sono i giorni in cui non si dice il Mismor le Todà. Abbiamo visto Shabbat e Moed, poi... Chol ha-moed di Pesach, perché anche in quei giorni non si portava, non si presentava il sacrificio di riconoscenza, di ringraziamento, Korban Todà. Per quale motivo non si portava il Korban Todà durante il Chol ha-moed di Pesach? Invece a Chol ha-moed di Sukkot si porta, evidentemente è una cosa speciale per Pesach. Il motivo è semplicissimo, lo vediamo subito. Le fische im ha-todà tzrichim lahavi asara lachmei chametz. Assieme al Korban Todà è un Korban che era accompagnato con un'offerta di 10 pani lievitati, chametz. Ovviamente il chametz è vietato a Pesach. Mm-hmm. visto che il Corban Todà richiede questi 10 pani lievitati, allora è ovvio che per tutto Pesach, incluso Chol HaMoed, non lo possiamo portare. Essendo un dono spontaneo, non è un problema, lo porti dopo, prima di Pesach. Inoltre, altri giorni in cui non si dice Mismor le Todà perché non ci sarebbe il Corban Todà sono i seguenti. Velobe Erev Pesach, anche la vigilia di Pesach non si fa il Corban Todà. Kishema, perché forse se si portano Corbanot Todà a Pesach, scusate, la vigilia di Pesach, forse non si farà in tempo a finire quei 10 pani prima dell'orario in cui... Primo dell'orario che non si può mangiare Chametz, perché è molto prima che entra Pesach stesso. Shema lo yuchlu le ochlam, forse non faranno in tempo a mangiarli ad zmani sur Chametz, fino al tempo del divieto di mangiare Chametz. Vitzarchu le sorfane, dovranno essere bruciati, perché poi non si può fare nient'altro, no? Oh. Anche la vigilia di Kippur non si porta il Korban Todà per un motivo simile. Velo bere vioma Kippurim. Perché c'è poco tempo a disposizione per mangiarli di nuovo, e quindi potrebbe far sì che mevico da shimli dei pisul, rendiamo pasul invalidi degli oggetti, dei cibi consacrati, perché dal momento che passa l'arco di tempo in cui bisogna mangiarli e non si mangiano, diventano invalidi e bisogna bruciarli. Se succede a posteriori, succede, si bruciano, ma fare appositamente quasi in modo che arrivano ad essere invalidati i cibi consacrati, questo non si può fare. E quindi vigilia di Kippur, che abbiamo meno tempo per mangiare, non si fa il Korban Todà, e di conseguenza nella tefilà si omette il Mismor le Todà in queste occasioni. Tisha B'Av si dice Mismor le Todà. Dove? Qui c'è scritto che Tisha B'Av non si dice? Non si dice in queste occasioni che è anche Tisha B'Av. No, ma è vero che non si dice a Tisha B'Av. Ma forse per la gioia. Forse per la gioia. Gioia o per il digiuno? Non credo che sia per il digiuno, perché non lo so, devo no, devo guardare, però credo che sia per la gioia, per il lutto. È un lutto, come fa? Questo ha detto, va detto con gioia. Sì, cioè più per lo spirito, credo, però dovrei controllare. Ok, nella prossima fase di questo capitolo noi vedremo quello che interessa a molti. Tutte le regole che riguardano quando ci si trova in un punto e il pubblico si trova in un altro punto della tefilà. La famosa tabella. La tabella, cosa si può interrompere, cosa si può saltare per raggiungere più facilmente, più rapidamente il minyan. E questo, se Dio vuole, lo vedremo la prossima volta. E auguro a tutti una buona giornata e un Shabbat Shalom. Grazie.